البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا Buongiorno Palestina, su Radio Wombat tutti i mercoledì alle 17.30. La trasmissione di oggi è dedicata interamente alla rassegna stampa mensile che in questo numero è a cura di Bocche Scuscite, Voci dalla Palestina Occupata, il sito web di rassegna stampa quotidiana promossa da Pax Christi Italia. In questa trasmissione ascolterete gli approfondimenti giornalistici su questi argomenti: elezioni israeliane del 20 e 21 marzo, elezioni dell'Assemblea legislativa palestinese del prossimo maggio-giugno e vaccini in Palestina. Troverete il link alla pagina web di Bocche Scuscite sulla pagina di Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Tutto questo dopo la selezione stampa settimanale a cura di Amicizia Italo-Palestinese e un breve stacco musicale. Buongiorno Palestina, sono Elena e vi parlo dalle frequenze di Radio Wombat, da cui ho il piacere di presentarvi 5 articoli selezionati questa settimana. Vaccini palestinesi fermi al palo, Israele invia 100.000 dosi altrove. Iniziamo con un articolo che ci aggiorna sulla situazione dei vaccini mancanti per i 5 milioni di palestinesi residenti nei territori occupati da quasi 54 anni e che Israele, nonostante sia tenuto a garantire, sta per inviare invece a paesi amici come Cipro, Ungheria, Mauritania, Guatemala, Maldive, San Marino, Etiopia, Chad, Kenya, Uganda e Guinea, che riceveranno, pare, ognuno 5.000 dosi. Questo mentre nei territori occupati si vivono giorni tra i più difficili dall'inizio della pandemia e dove si attendono ancora gli aiuti del programma COVAX dell'OMS per i paesi in via di sviluppo. Popolazione e politica israeliani non pensano che la questione palestinese comunque abbia importanza. Anzi, occuparsene fa perdere voti per le prossime elezioni parlamentari che si terranno tra 2 settimane, il 23 marzo, per eleggere i 120 membri dell'Assemblea. La salute dei palestinesi, eccezion fatta per chi lavora o è residente in Israele, a quanto pare non conta. Ed i vaccini sono invece merce di scambio per la diplomazia di Netanyahu, che rischia di perdere il posto. L'articolo è di Michele Giorgio da Tel Aviv sul Manifesto del 10 marzo. Proseguendo, passiamo ad un'altra notizia che riguarda il Summit 2021 dei sindaci contro l'antisemitismo, dove in realtà dovrebbe essere adottata la recente definizione data dall'International Holocaust Remembers Alliance, sigla IHRA, definita imprecisa, unilaterale ed usata in modo strumentale dal collettivo ebraico internazionale per la giustizia in Palestina, che ha quindi scritto una lettera aperta ai sindaci italiani di Palermo e Bologna, che dovrebbero intervenire al vertice globale il 16 marzo prossimo, invitandoli a non partecipare. Questo incontro, infatti, secondo questa organizzazione, non sarebbe realizzato con l'intenzione di combattere realmente l'antisemitismo, ma avrebbe lo scopo di equipararlo alla legittima critica delle violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani da parte del governo israeliano, che infatti sostiene questa operazione con l'obiettivo di mettere a tacere le critiche alle politiche di colonizzazione e occupazione militare imposte al popolo palestinese. A tal proposito, ricorda che anche la più importante organizzazione israeliana per i diritti umani, B'Tselem, ha riconosciuto Israele come un regime di apartheid e che i suoi crimini di guerra contro l'umanità saranno presto indagati dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA. In una dichiarazione pubblica su The Guardian, inoltre, numerosi intellettuali di tutti i paesi si sono schierati contro la definizione di antisemitismo fornita dall'IHRA. Questo era un comunicato del BDS Italia. Ma cambiamo argomento parlando del movimento femminista palestinese l'8 marzo. L'articolo tratta di come il movimento dal 1978 si batta non solo per l'indipendenza palestinese e contro l'occupazione israeliana, ma anche contro il patriarcato dominante in entrambe le società. Questo passando attraverso date storiche. Nel 1984, quando le detenute politiche, dopo 11 mesi di sciopero, ottennero condizioni di prigionia migliori. Nel 1988, durante la prima intifada, quando l'8 marzo furono organizzate più di 100 manifestazioni. Nel 2016, con l'arresto dell'attivista di Nabi Saleh, Manal Tamimi. Si legge come il movimento delle donne affondi le radici agli inizi del Novecento, quando in Medio Oriente, ma anche in Nord Africa, i movimenti nazionalisti rivendicarono l'indipendenza dalle potenze coloniali. L'articolo, diffuso e puntuale, mette in evidenza la complessa condizione di duplice oppressione che vivono le donne passate dalla resistenza anticolonialista inglese a quella anti-israeliana, al confronto dagli anni Ottanta con l'ascesa dell'Islam politico di Hamas, che ha sempre ricacciato indietro le loro specifiche rivendicazioni sociali. Le attiviste, infatti, mettono in relazione la violenza strutturale del colonialismo di insediamento con quella patriarcale della società palestinese. È la stessa relazione occupante-occupato ad essere patriarcale, dove l'occupazione è creata da uomini, guidata da uomini e continua ad essere imposta da uomini. Dal 2019 il movimento Taliat, quelle che scendono in strada, chiede l'approvazione della legge sulla protezione della famiglia e delle donne, mentre propone la sua visione per la liberazione, che potrà essere duratura solo se inclusiva. Cecilia Della Negra, dalla testata online Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa. Ma passiamo alla notizia che riguarda la settimana dell'apartheid israeliana. Israeli Apartheid Week dal 14 al 21 marzo, strumento per il sostegno a livello internazionale della lotta palestinese per la giustizia e che appoggia la campagna del BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, perché la repressione israeliana in Palestina esporta ideologie, strumenti di sorveglianza, armi di oppressione per la repressione e il dominio razziale e militare in tutto il resto del mondo. Dalla Fortezza Europa agli Stati Uniti, dall'India al Myanmar, dal Brasile, dall'Honduras al Sudan e dal Ruanda, e che quest'anno riceve l'appoggio di Angela Davis nella consapevolezza che protestare per la libertà palestinese sia parte della lotta per ottenere giustizia e uguaglianza per tutti gli altri. Quest'anno, infatti, la settimana dell'apartheid israeliana si unisce alla celebrazione della Giornata internazionale contro il razzismo, organizzando una massiccia protesta globale virtuale per opporsi alla discriminazione razziale, al colonialismo, all'apartheid e per celebrare la diversità e la connessione delle lotte. È previsto infatti un presidio Yav, giornata della terra palestinese, a Firenze il 27 marzo alle ore 15:30 in Piazza della Repubblica, da un comunicato del BDS Italia. L'esercito online di Netanyahu nel Golfo Persico. Concludiamo con un interessante articolo che si occupa della normalizzazione dei rapporti tra Israele e gli stati arabi del Golfo Persico in funzione anti-iraniana ottenuta con i cosiddetti accordi di Abramo voluti da Trump nel 2020 e con il massiccio utilizzo dei social media arabi da parte israeliana per diffondere un'immagine più positiva di Israele, per rafforzare le relazioni diplomatiche, per la crescita economica e l'amicizia tra questi paesi. Si sono aperti quindi una serie di account in lingua araba su Facebook, con milioni di follower nella regione, che diffondono propaganda di Stato e creano interesse sui progressi tecnologici che più riguardano il mondo arabo, e cioè l'ingegneria agricola e la medicina. Di conseguenza, mentre Israele ha rafforzato il controllo sui territori occupati, l'occupazione è diventata meno importante nelle strategie dei leader arabi, che arrivano a demonizzare la resistenza palestinese come terrorismo illegittimo, che rifiuterebbe irresponsabilmente gli accordi di pace proposti dagli israeliani, mentre le loro ambizioni nazionali sono viste come pericolose, corrotte e radicali. Kate Vesherberg, sito web israeliano, Forum for Regional Thinking. Con questo si conclude la selezione stampa della settimana. Ricordiamo che gli articoli si possono leggere in italiano con le rispettive fonti sul sito di Associazione Amicizia Italo-Palestinese. Alla prossima, buona giornata. تقولي احكي لهم قصتنا احنا اللي بعدنا صامدين احنا اللي ما غلبتنا حروب وما فرفطتنا لسنين احنا اللي بعدنا من جول زيتون زرعوا جد اللي مات احنا اللي باقين على طول وقت ما تبدلت قيادات احنا اللي صوت الجبل فينا ورعشة غصون الكينا احنا القمح احنا الغربال احنا المنارة على المينا يابا يابا Salve a tutte e a tutti. Vi parla Norberto a nome di Bocche Scucite, voci dalla Palestina occupata. Questo è il nome del sito che fa una rassegna stampa quotidiana per la campagna Ponti e non Muri, promossa da Pax Christi Italia, sezione del Movimento Internazionale per la Pace che ha lo stesso nome. La campagna Ponti e non Muri svolge attività di formazione, informazione, controinformazione a sostegno del popolo palestinese, per ristabilire il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale sia nella Palestina occupata che nello Stato di Israele. Ogni anno organizziamo viaggi in Palestina chiamati pellegrinaggi di giustizia, incontrando testimoni della resistenza non violenta per una pace giusta. Fra questi incontriamo i cristiani palestinesi arabi e gli ebrei che dissentono dalla politica dei loro governi e ne pagano le conseguenze. In Italia abbiamo promosso la rete di associazioni chiamata Società Civile per la Palestina, cui hanno aderito 20 associazioni impegnate per la questione palestinese. Ancora un saluto a voi ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Bombard da parte di Norberto di Bocche Scucite. In questa nostra rassegna stampa intanto vi condurremo un po' a leggere, a riflettere sulle elezioni israeliane-palestinesi, che sono due storie diverse che curiosamente si trovano a darsi degli appuntamenti nel 2021. Per la quarta volta in due anni, il 23 marzo, Israele voterà per rinnovare la Knesset. E invece per la prima volta dopo 15 anni, fra maggio e giugno, si svolgeranno le elezioni per rinnovare l'Assemblea Legislativa Palestinese. Sono due storie diverse, ma in qualche modo convergenze parallele, si sarebbe detto un tempo. Non si incontrano, ma certamente si influenzano e si condizionano. E manifestano per la loro modalità due situazioni di crisi e probabilmente direi proprio due impasse. Per Israele semplicemente il compiersi di un progresso delle politiche di destra in maniera più o meno decisa, e invece per la Palestina la situazione di crisi è quella di come uscire da uno status quo che si sta appesantendo, aggravando via più. In Israele la partita è tutta a destra e conferma solo posizioni razziste di apartheid, che come sappiamo sono fuori dal contesto giuridico internazionale, ancorché nessuno ne denunci la infrazione permanente. Se la giocano quindi Netanyahu, Naftali Bennett, Gideon Saar, ma insomma non si sa cosa scegliere, ecco, sono sostenitori davvero razzisti, insomma, ecco, che sostengono posizioni addirittura di deportazione della popolazione, naturalmente, palestinese, insomma, ecco. E situazioni fondamentaliste, insomma. E Israele vive una crisi che deriva anche dal suo sistema elettorale, che lo impicca, insomma, ad un proporzionale puro in un'assemblea di piccoli numeri, e quindi, insomma, maggioranze risicate, ricatti, partiti minori, spesso appunto estremisti, per cui forse questo sistema è stato pensato per uno Stato sionista che si pensava coeso e solidale, e invece da questo punto di vista, viste anche le crisi ricorrenti, è certamente fallito, e coeso e solidale non lo è. Ecco, mi piacerebbe orientare adesso la lettura su un intervento di Mikko Peled, che, come sapete, è noto israeliano-americano, figlio del generale Matityahu Peled, che fu, insomma, attivo nell'esercito israeliano ai tempi delle prime guerre. E il figlio, Mikko, dissidente, un oppositore esplicito ai governi sionisti di Israele, e scrive per Mint Press News, e il 25 febbraio scorso ha scritto un articolo dal titolo «Le elezioni non sono la democrazia, appello al boicottaggio delle insignificanti prossime elezioni israeliane e palestinesi». «Le elezioni avranno importanza in Palestina», scrive Peled, «quando saranno rivolte a includere tutte le persone che vivono tra il fiume e il mare. Una persona, un voto, per un'unica legislatura ed esecutivo in una Palestina liberata. Se non si determinano queste condizioni», dice Peled, «che andiamo a votare a fare». Racconta infatti l'esperienza della lista congiunta. Nel 2015 la lista congiunta araba, per esempio, si formò e molti pensavano fosse un miracolo. Vinsero 13 seggi, e anzi nel 19 fecero meglio, ne presero 15, diventando il blocco più grande della Knesset. Ma a prescindere dal lavoro duro di legislatori seri e laboriosi, insomma, come sono questi della lista congiunta, il paese vive una criminalità violenta all'interno ai massimi storici. Ecco, come sappiamo, demolizione di case, mancati finanziamenti, inasprimento di politiche razziste, ecco, sono ai massimi livelli, a seguire tutto quello che sappiamo. E quindi si domanda Mikko Peled se questo è ciò che accade quando la rappresentanza araba è alta alla Knesset, perché preoccuparsi di candidarsi? Tanto i partiti sionisti non collaboreranno mai con gli arabi. La cooperazione con i palestinesi è una linea rossa che nessun politico sionista varcherà. Ora addirittura, come sappiamo, la lista congiunta non è più quella, c'è un generale senso di disillusione, e ciò porterà ad astensioni, e si prevede che la lista, quel che rimane della lista congiunta, abbia 7-8 seggi, insomma la metà di ciò che aveva in precedenza. E per questo, insomma, se i partiti politici palestinesi al meglio riescono a ottenere nulla che metta fine alle politiche di abbandono e di discriminazione, ecco, perché fare il gioco che Israele vuole che facciano gli stessi arabo-israeliani? A questo proposito, la scrittrice ed analista del network Al-Shabaha, Yara Awari, scrive su Al Jazeera, e Mikko Peled la cita, una frase molto chiara: «Le elezioni sono solo procedure tecniche e non sono in alcun modo intercambiabili con la democrazia. Si svolgono regolarmente non solo nelle democrazie, ma anche nei paesi in cui le caratteristiche democratiche sono carenti e del tutto assenti». E quindi il fatto che i cittadini palestinesi in Israele possano votare, insomma, è solo una questione procedurale, no? E ha poco a che fare con la democrazia. E quindi in corso anche una campagna vera e propria di boicottaggio, guidata dal gruppo Movimento Laico Progressista Abna al-Balad, che ha il suo leader peraltro in prigione. Questa politica di imprigionare i capi degli oppositori naturalmente dilaga in Israele, e questi dicono, questa è l'elezione per la 24esima Knesset, ecco, evitiamo il rischio di essere ingannati per la 24esima volta. E quindi questo è un po' il quadro che si prospetta per la componente palestinese arabo-israeliana in vista delle prossime elezioni della Knesset. Vedremo poi che cosa possiamo dire e leggere riguardo al rinnovo dell'esecutivo e dell'organo legislativo palestinese. يا ريت لسرشت الفرس ولبعت هالمرسان يا ريت لسرشت الفرس ولبعت هالمرسان عرب وصحراء وغيبة يوم بيني وبينك ضربة رمح فرس وسيف وهجم الصبح بيني وبينك ضربة رمح فرس وسيف وهجم الصبح Vediamo ora che cosa accade sul fronte palestinese, ed è forse necessario fare una breve cronistoria della situazione in cui ci troviamo. È il primo voto in 15 anni e le elezioni legislative e presidenziali sono previste appunto per maggio, le legislative, e luglio le presidenziali. Sarebbero le prime dalle elezioni legislative del 2006, quando ricorderete che Hamas vinse con una vittoria schiacciante battendo Fatah, la fazione dell'autorità nazionale palestinese che è al potere, tuttora guidata da Mahmoud Abbas. Tuttavia il partito di Abbas, sostenuto da Israele, Stati Uniti, Unione Europea e alcuni stati arabi, non permise ad Hamas di assumere il governo dell'autorità nazionale palestinese. E invece le milizie allineate con Fatah a Gaza, in accordo con gli Stati Uniti, cercarono di rimuovere Hamas dal potere con la forza, e fu purtroppo una faida interna alle componenti politiche palestinesi, con esiti anche sanguinosi e davvero dolorosi. Ma nel giugno del 2007 avvenne che Hamas espulse appunto da Gaza le forze di Fatah sostenute dagli Stati Uniti. Il tentativo di golpe contro Hamas dopo la sua vittoria alle elezioni ha portato all'attuale divisione, per cui la ANP di Abbas, sostenuta dall'Occidente, ha mantenuto il controllo in Cisgiordania, mentre Hamas, come sappiamo, isolata a livello internazionale, ha governato all'interno della striscia di Gaza assediata. Non vi è alcuna garanzia, tra l'altro, che si svolgeranno le elezioni, poiché negli ultimi anni altre volte sono state programmate votazioni poi rinviate a tempo indeterminato. Le elezioni sono largamente viste come un modo per rafforzare la legittimità dei principali partiti politici palestinesi a 15 anni appunto dall'ultima votazione. Qualsiasi riconciliazione, scrive Abu Dimah di Electronic Intifada, qualsiasi riconciliazione o unità nazionale può basarsi solo sul fatto che Fatah di Abbas abbandoni la collaborazione con Israele e che Hamas abbandoni la resistenza. E sono entrambe delle opzioni piuttosto complicate. Le questioni aperte sono diverse. Intanto ci sarà una lista unita fra Hamas e Fatah? E che farà Marwan Barghouti, di cui si discute se si candidi o non si candidi alla presidenza della NP. E poi, come appena ricordavo, il voto verrà riconosciuto dai contendenti in primis e poi dalla comunità internazionale. Al riguardo la questione non è così chiara e lineare. Michele Giorgio sul Manifesto di un mese fa ci ricordava queste cose, tra l'altro dicendo che resta ancora da risolvere la questione del ruolo dei giudici nel controllo dei risultati delle votazioni. E sembra che Abu Mazen con un decreto, come denunciano alcuni, si sarebbe garantito delle corti di riferimento più favorevoli a Fatah in Cisgiordania, mentre è messa in dubbio la legittimità dei giudici a Gaza, roccaforte di Hamas. Quindi i motivi di divisione sono davvero parecchi e complicati. Ho trovato un importante intervento di Ramzi Baroud, che è un noto giornalista, analista, editorialista, nativo di Gaza, che vive in Italia. Leggo da un suo intervento pubblicato da Infopal il 10 marzo, che mi sembra particolarmente interessante. Baroud scrive che il decreto delle elezioni legislative e presidenziali è stato accolto con grande favore, non è un vero e proprio trionfo della democrazia, ma un primo risultato positivo tangibile del dialogo tra le fazioni palestinesi rivali, principalmente appunto Fatah e Hamas. Tuttavia, queste semplici aspettative sono condizionate da molti se. Se le fazioni palestinesi onoreranno i loro impegni presi con l'accordo di Istanbul del 24 settembre dello scorso anno e degli accordi o comunque delle discussioni in corso al Cairo che stanno proseguendo proprio mentre vi parlo, e se giungeranno quindi, come dicevamo, ad un accordo anche per una lista unita. Poi bisognerà vedere se Israele permetterà ai palestinesi, specialmente quelli di Gerusalemme Est, di votare senza ostacoli, e si asterrà soprattutto dall'arrestare i candidati palestinesi, come ha già cominciato a fare. Se la comunità internazionale guidata dagli USA accetterà il risultato delle elezioni democratiche senza punire i partiti, i candidati vincitori. E poi se le elezioni legislative e presidenziali saranno seguite da elezioni più importanti e significative, per esempio per il Consiglio Nazionale Palestinese, che è il Parlamento palestinese in esilio, insomma, ecco. E se una qualsiasi di queste condizioni non sarà soddisfatta, le elezioni probabilmente non avranno nessuno scopo pratico, a parte il fatto di fornire ad Abbas e ai suoi rivali una parvenza di legittimità, permettendo di acquisire ancora tempo e soprattutto fondi dai loro benefattori finanziari. Tutto questo ci obbliga a chiederci se la democrazia è possibile sotto un'occupazione militare, dice Baroud. Quasi subito dopo le ultime elezioni democratiche del 2006, i cui risultati hanno contrariato Israele, 62 fra ministri palestinesi e membri del nuovo Parlamento sono stati sbattuti in prigione e molti sono ancora là. Israele infatti ha già iniziato ad arrestare leader, i membri di Hamas in Cisgiordania. Almeno 20 dal 22 febbraio, compresi i funzionari di Hamas, sono detenuti, il che invia un chiaro messaggio ai palestinesi da parte delle autorità occupanti, cioè Israele non riconosce il loro dialogo, anzi lo teme, i loro accordi di unità o la loro democrazia. Tra le incursioni notturne dell'IDF e della polizia israeliana e gli intrighi politici all'interno del movimento diviso, peraltro, di Fatah, ci si chiede se le elezioni, se avranno luogo, permetteranno finalmente ai palestinesi di costituire un fronte unito nella lotta contro l'occupazione e per la loro libertà. C'è anche, come dicevo, il problema dell'eventuale posizione che la comunità internazionale prenderà quando i risultati delle elezioni saranno rese note. I notiziari parlano degli sforzi compiuti da Hamas per cercare garanzie dal Qatar e dall'Egitto per garantire che Israele non perseguirà i suoi rappresentanti. Ma che tipo di garanzie potranno ottenere i paesi arabi da Tel Aviv? E che tipo di influenza possono avere Doha e il Cairo quando Israele continua, come sappiamo, ad ignorare l'ONU, a mostrare disprezzo per il diritto internazionale e per la Corte Penale Internazionale? E nonostante tutte queste incertezze, può la democrazia palestinese, scrive ancora Baroud, permettersi di sopravvivere nella sua attuale inerzia? Il mandato di Abbas è scaduto nel 2009, il mandato dell'Assemblea legislativa è terminato nel 2010. In effetti l'autorità palestinese era stata creata come un organismo politico che doveva aver fine nel 1999. E da allora la leadership palestinese non ha goduto di legittimità tra i palestinesi, derivando la sua importanza invece, come sappiamo, dal sostegno dei benefattori internazionali, che raramente sono interessati a sostenere la democrazia in Palestina. L'unico aspetto positivo di questa vicenda in corso è che Fatah e Hamas si sono accordati anche sulla ristrutturazione dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che è attualmente monopolizzata da Fatah. Se la ristrutturazione democratica dell'OLP avrà luogo o meno, dipende in gran parte dal risultato delle elezioni di maggio e di giugno. La Palestina, scrive ancora Baroud, come altri paesi del Medio Oriente, compreso Israele, importante sottolineatura, ha una crisi di legittimità politica. Essendo un territorio occupato, il cui popolo ha poca o nessuna libertà, tuttavia è giustificato sostenere che una vera democrazia in queste orribili condizioni non può essere raggiunta. Tenere elezioni sotto occupazione e spesso sotto il fuoco è il dilemma dell'impossibile democrazia della Palestina. Sembra quindi che se lasciati soli i palestinesi e per contrapposto posizione, insomma, la stessa Israele non usciranno dall'impasse in cui si sono messi a motivo della tenace costanza con la quale Israele prosegue nella sua attività di occupazione e nella sua fattiva politica di apartheid ormai accertata e acclarata, anche se sembra fatto divieto di parlarne, ma di fatto siamo in quelle condizioni. Per cui dobbiamo guardare con interesse e con attenzione a quello che accade laggiù, e augurandoci che comunque si trovi una soluzione. Le elezioni in casa palestinese soprattutto sembrano comunque non più rinviabili, pur con tutti i condizionamenti e tutti i se che Baroud ha scritto nel suo articolo. Ciò che rimarcano tutti e ciò che ci chiedono tutti quando noi andiamo anche giù a trovarli o adesso siamo in collegamento online con loro è sempre l'eterna questione di questa latitanza della comunità internazionale per quanto riguarda l'impegno a favore dei diritti umani e del diritto internazionale da tutelare, da sostenere anche nel caso della Palestina occupata. E anche la connessa questione poi invece, anziché di una latitanza, di una interferenza pesante guidata da Israele per impedire un pieno sviluppo della democrazia palestinese. Quindi ancora una volta la palla torna anche un po' nel nostro campo occidentale, di noi democrazie europee e non solo, insomma. E certo, finché non usciremo da questo ricatto per il quale ci chiudono la bocca in nome di una sorta di libera iniziativa di Israele di perseguire i suoi disegni senza censure, a motivo quasi di compensazione di ciò che purtroppo è stato fatto, insomma, ecco, alla popolazione ebraica nel corso della storia europea con l'orrendo crimine della Shoah. Tutto questo ormai sta dimostrando che ha un limite, non possiamo dimenticarci che non può essere questo un ricatto morale per farci tacere rispetto a ristabilire una situazione di giustizia e di rispetto dei diritti. A questo siamo chiamati e anche noi attivisti occidentali per la causa palestinese e per la questione israeliana siamo tenuti, dobbiamo deciderci, dobbiamo organizzarci ed essere ancora più determinati, specialmente per fare una pressione significativa sulla nostra società politica affinché si esprima e si comporti coerentemente se vogliamo finalmente costruire una pace giusta che ci porti fuori da questo tremendo stato di cose che nuoce anche alla pace nel mondo, perché questo vulcano perennemente attivo in Medio Oriente sta davvero condizionando la geopolitica in un quadrante rilevantissimo che ci sta mostrando come il permanere della non soluzione della questione palestinese si riverbera anche sugli stati confinanti e progressivamente, abbiamo visto, porta alla loro scomposizione, se non alla loro distruzione. Quindi c'è molto lavoro da fare, andiamo avanti così. E quanto a voi, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Webinar, vi porgo un saluto cordiale e un appello ad un impegno sempre più determinato. Grazie e al prossimo incontro. ومسيج السما فوقيها وغصونا مكسورة يا بأرضنا تحت جرينا بس وطن ما فيه ساكنين بيوت من حجر بس حاسين بمعنى يابا أنا تعباني بس مش يأساني يابا يابا تغسون الكينة أنا القمح أنا الغربال أنا المنارة على المينا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا Sono Ruggero da Ross di Bocche Scucite. Vi parlo del problema delle vaccinazioni in Palestina, in Israele e Palestina. E lo farei ripercorrendo ciò che è successo nell'ultimo periodo, leggendo alcune parti di articoli recenti. Comincerei da quello di Romana Rubeo, la caporedattrice di The Palestine Chronicle, il quale cerca di capire cosa si nasconde dietro il modello vincente di Israele. Il titolo è Rovesciare la narrazione. Cosa si nasconde dietro il modello israeliano? Il regime di apartheid sanitaria, in cui sono confinati i territori palestinesi, si è fatto più stringente durante questa pandemia, seppur offuscato dalla propaganda dell'efficienza israeliana. Cosa è successo in pratica? Che, come sappiamo, Israele è il modello mondiale di efficienza dal punto di vista dei vaccini, con oltre la metà della popolazione ormai vaccinata, circa l'80% degli ultra sessantenni vaccinati, tanto che si permette di riaprire ormai la vita normale. Dice l'articolo, come è riuscito un paese con poco più di 9 milioni di abitanti ad accaparrarsi un numero di dosi così elevato da creare addirittura delle eccedenze? La risposta, secondo un recente articolo del Financial Times, starebbe nelle 17 conversazioni tra Albert Bourla, l'amministratore delegato della Pfizer. Albert Bourla è un ebreo, figlio di ebrei sefarditi scampati all'olocausto, nati in Grecia, originari dalla Grecia e poi emigrati negli Stati Uniti. Allora, deriva dalle 17 conversazioni dell'amministratore delegato della Pfizer con Benjamin Netanyahu e Yuli Edelstein, ministro della salute israeliano. Diciamo che questi colloqui hanno dato la possibilità, hanno permesso di dare il via a una delle campagne vaccinali più veloci al mondo, con la contropartita cedendo, diciamo, la condivisione dei dati, permettendo alla Pfizer di analizzare, di utilizzare i dati delle vaccinazioni in Israele per i suoi studi. Ma non basta, dice l'articolo, però, la condivisione dei dati sanitari e la possibilità pur allettanto per la Pfizer di disporre di un terreno sperimentale su scala statale. Il primato di Israele si poggia anche su una disponibilità da parte di Tel Aviv a pagare sino a $28 a dose, oltre il 40% in più degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. Nelle dinamiche di libero mercato, in cui anche il vaccino anti-Covid è inserito, la combinazione dei due fattori è risultata vincente, almeno dal punto di vista di Israele. Certamente la corsa all'accaparamento di più dosi possibile non è prerogativa solo di Israele. Tutti gli stati ricchi del mondo hanno cercato di avere più dosi possibili, incuranti anche dei paesi poveri. Però il caso di Israele presenta elementi di originalità, perché ad essere esclusi dalla campagna vaccinale sono stati i palestinesi, sia coloro che vivono nei territori occupati, sia quelli che vivono a Gaza. Tanto più che sono stati vaccinati tutti i residenti delle colonie che vivono nelle colonie illegali dentro la Palestina, mentre i palestinesi intorno, appunto, non hanno visto alcun vaccino, almeno nella prima fase. E questo ovviamente va contro l'articolo 56 della Quarta Convenzione di Ginevra, che stabilisce per la forza occupante il dovere di assicurare l'adozione e l'applicazione delle misure profilattiche e preventive necessarie per combattere la diffusione di malattie contagiose e di epidemie. Verso la metà di febbraio, tra l'altro, non bastasse appunto il fatto che Israele non voleva cedere dei suoi vaccini alla Palestina, anche se obbligata a farlo, verso la metà di febbraio, dicevamo, ha addirittura bloccato 4.000 dosi di vaccino Sputnik arrivanti dalla Russia diretti a Gaza, perché, come sappiamo, tutto quello che arriva in Palestina deve passare attraverso i confini di Israele e vengono controllati da Israele. Li ha bloccati cercando di ricattare Hamas, dicendo: noi vi lasciamo i vaccini se voi liberate alcuni nostri prigionieri che avete nelle vostre prigioni. Chiaramente questo ricatto sanitario è arrivato ai giornali e dopo una settimana Israele ha concesso comunque 1.000 vaccini, metà delle dosi, e dopo una settimana ancora ha concesso l'altra metà. Un altro evento che ha fatto scalpore è stato quello di fine febbraio, dove Netanyahu ha dato la notizia alla stampa che, siccome aveva così tanti vaccini a disposizione, ne avrebbe date alcune dosi, quantità simboliche, diciamo da 2.000-5.000 dosi, a una ventina di paesi amici di Israele. E fra questi paesi compare per esempio il Guatemala, che ha spostato l'ambasciata nel 2018 da Tel Aviv a Gerusalemme, oppure l'Honduras, che sta prestando a farlo, oppure altri paesi come l'Ungheria, come la Repubblica Ceca, che in qualche modo vogliono aprire delle rappresentanze in Gerusalemme. Fra gli altri stati compaiono il Chad, l'Uganda, il Kenya, l'Etiopia, l'Honduras, le Maldive, la Mauritania e persino San Marino. Sì, la quantità decisamente simbolica era appunto di 5.000 dosi, non di più, ma se pensiamo che sono 20 paesi, sarebbero state 100.000 dosi, che sarebbe stata una quota consistente da poter utilizzare per i palestinesi, cosa che questo evento, questa notizia, ha fatto andare sulle furie anche alcuni politici addirittura statunitensi, fra cui il senatore democratico Sanders, che dice: è oltraggioso che Netanyahu utilizzi vaccini in eccedenza per ricompensare i suoi alleati stranieri, mentre tanti palestinesi stanno ancora aspettando di vaccinarsi. Questo è comparso appunto anche sul manifesto. Anche in Italia c'è stata un'alzata di scudi da parte di alcuni politici. I deputati Boldrini, Fassina ed Erasmo hanno chiesto un'interrogazione al ministro degli esteri Di Maio proprio su questo tema. Ma com'è la situazione attuale delle vaccinazioni in Palestina in questi ultimi giorni? Beh, hanno cominciato a vaccinare i palestinesi, gli israeliani hanno cominciato a vaccinare i palestinesi, ma solo quelli che vanno a lavorare in Israele, passando ogni giorno i checkpoint. Sono circa 100.000 lavoratori e Israele, appunto, per salvaguardarsi da eventuali contagi, sta vaccinando direttamente ai checkpoint. Ricordiamo che alcuni checkpoint israeliani sono enormi, quindi hanno delle strutture, anche delle specie di caserme a volte all'interno. Li stanno vaccinando direttamente ai checkpoint, ma ancora niente alla popolazione, tanto che in un'intervista fatta dal sussidiario.net a Filippo Landi è emerso che su 5 milioni di abitanti dei territori palestinesi attualmente hanno ricevuto solo 30.000 dosi di Sputnik direttamente dalla Russia, 2.000 dosi di Moderna da Israele e nessun altro vaccino, nessuno della Pfizer. Questo, diciamo, mette in luce che Israele sta continuando la sua politica dello sfinimento, quella politica dello sfinimento che è iniziata molti anni fa dall'occupazione sostanzialmente, quella di continuare a usare una politica di demotivazione, di stancamento della popolazione di Gaza e dei territori palestinesi, come è stato riportato anche nel rapporto WikiLeaks del 2008, dove appunto emergeva che in uno scambio di mail tra l'ambasciata statunitense e quella israeliana si diceva che Israele cercava di tenere il livello più basso possibile di sussistenza in questi territori palestinesi, lasciando passare per i confini il minimo possibile, tutto quello necessario per evitare solo la crisi umanitaria, ma non di più. E questo, insomma, si sta continuando, la politica anche di questi giorni è proprio questa. Prima di passare alla consueta rassegna musicale di oggi, vi ricordo che la settimana contro l'apartheid israeliana continua e insieme alla Giornata della Terra l'appuntamento da non mancare a Firenze sarà il presidio del 27 marzo alle ore 15:30 in Piazza della Repubblica. Per la rassegna musicale avete ascoltato in parte e riascolterete Mira Awad in Jaba, Padre mio. In questa canzone Mira dice: io e mio padre siamo nati e cresciuti nello stesso punto geografico, un villaggio chiamato Rame in Galilea. Tuttavia, quando mio padre nacque nel 1936, quella terra si chiamava Palestina, mentre nel 1975, quando sono nata io, era diventato Israele. La canzone Jaba parla della nostra identità di cittadini nativi palestinesi di questa terra tormentata. A seguire Moment Out of Time, sempre Mira Awad e Guy Mintus, una canzone del 2020. Solo un momento prima che il coronavirus assediasse il mondo, la quarantena divenne uno stile di vita e la maschera divenne un accessorio indispensabile. Se c'è qualcosa che questa pandemia mi ha insegnato, è vivere nel momento e apprezzare quello che ho, vivere e amare come se non ci fosse un domani. È di questo che parla la canzone Moment Out of Time. E per finire, Marcel Calife in O brezza di vento, alzati, lascia che la mente... Marcel Calife non ha bisogno di presentazioni, basta ricordare che ha musicato moltissime poesie di Mahmoud Darwish, di cui ricorre in questo mese l'80° compleanno. E a proposito, tra le molte iniziative in atto, vi ricordiamo quella di giovedì 18 alle ore 21, sempre sulla pagina Facebook di Assopace Palestina, dove verrà proiettato il film dal titolo E la terra come la langue, la terra come la lingua, con i sottotitoli in italiano. Vi anticipiamo inoltre che anche noi di Buongiorno Palestina dedicheremo la prossima trasmissione al grande poeta palestinese. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Inshallah! تقول لي احكي لهم قصتنا احنا اللي بعدنا صامدين احنا اللي ما غلبتنا حروب وما فرفطتنا لسنين احنا اللي بعدنا من جول زيتون زرعوا جد اللي مات احنا اللي باقين على طول وقت ما تبدلت قيادات احنا اللي صوت الجبل فينا ورعشة غصون الكينا احنا القمح احنا الغربال احنا المنارة على المينا يابا يابا يابا بشعر زي شجرة كبيرة عتيقة صار لها بهالأرض دهور وجذور غميقة لكن ما إلها وسع وحياتها محشورة ومسيج السما فوقيها وغصونا مكسورة يا بأرضنا تحت جرينا بس وطن ما في ساكنين بيوت من حجر بس حاسين بمنا يابا أنا تعباني بس مش يأساني يابا يابا يابا يابا يابا يابا صوت الجبل فيه ورعشة غصون الكينا أنا القمح أنا الغربال أنا المنارة على المينا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا Hold my hand and sweep the desert off my face Take my song, my soul, my silence, my embrace Give me your joy, your pain, your story Before you go and leave no trace In a moment out of Do not speak of love. No vows, no promises, nothing to be weary of. Nothing weighing on us for the days in store. Let them come, we are wide open to the lives we're dead. Words are dead and easily mine. زلشتيني قومي اطلعي عالباب في فوق سجادة الصلاة واللي عم بيصلوا قلال صوتهم مثل مصر المرا وبعلبك رجال عاكتر ما طلع العشب بيناتنا بيرعى الغزال بغيبتك نزل الشتي قومي اطلعي عالباب في فوق سجادة الصلاة واللي عم بيصلوا قلال صوتهم مثل مصر المرا وبعلبك رجال عاكتر ما طلع العشب بينات بيرعى الغزال وديه ايد مع راعي حمام يشف لي الطقس شمال قال لي السني جاي هوا بيوقع الخيال ويلي جيد مع راعي حمام يشف لي الطقس شمال قال لي السني جاي هوا بيوقع الخيال ويلي يا أسرشت الفرس ولبعت هالمرسال يا ري أسرشت الفرس ولبعت هالمرسال عرب وصحرا وغيبة يوم بيني وبينك ضربة رمح فرس وسيف وهجم الصبح بيني وبينك ضربة رمح فرس وسيف وهجم الصبح طير الطير ونادوا كلن عالفراق قاطفني مثل الصفير صوت الغنو بالعراق بيني وبينك طير الطير ونادوا كلن عالفراق قاطفني مثل الصفير صوت الغنو بالعراق لك مفتاح الإنس لو نقلك كان مديني وبالشام العرس لركب عالفرس وجيب لك مفتاح الإنس رايح اسرق لك غابي اسرق لك شاب رايح اسرق لك غابي اسرق لك شاب صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو لا صفقة